Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Speciale Bruxelles. Zanzare, Uak Bar, zanzare, Uak Bar. Allora ragazzi, un avvertimento, questa trasmissione di oggi, caro Parenzo, andrà in onda naturalmente con un unico argomento, quello che è accaduto questa mattina e quello che sta accadendo a Bruxelles, naturalmente. Dunque giusto. Tutte le telefonate, inutile che cominciate a chiamare su mille argomenti eccetera eccetera, tutte le telefonate e tutti gli ospiti saranno su questo argomento, chiaro? Dunque vi ripeto i numeri, anche i vostri WhatsApp vanno indirizzati su questo 800 24 00 24, centralino, voglio un sacco di telefonate questa sera, dite quello che vi pare. Limitate le cazzate. Ce ne sono già lette tante oggi. Lascia gli ascoltatori esprimersi come vogliono. Tremo già l'idea delle cazzate che qualcuno non è vero, dirà. Non è vero. 800 24 00 24, e poi 393 71 71 701, mandateci i vostri WhatsApp, magari li mandiamo in onda, decidiamo noi naturalmente come e quando, la grande regia della zanzara. Allora, la frase fondamentale di oggi, con noi ci sarà naturalmente anche Anna Migliorati per aggiornamenti continui su quello che accade a Bruxelles molto e dintorni. Molto bene, siamo sempre sul pezzo. La cosa fondamentale è una frase questa mattina pronunciata da Enrico Mentana. Questa volta voglio fare un grande elogio ad Enrico Mentana, come farebbe Parenzo di solito. Perché a un certo punto, ma non riguarda solo la Boldrini, riguarda le frasi vuote che vengono dette in questi casi. Il dichiarificio italiano, chiamiamolo così, no? Perché ovviamente si scatena il dichiarificio. Adesso, questa zona è una zona free, come cruelty free, no? Noi siamo free dal dichiarificio italiano, almeno cerchiamo di essere naturalmente, Parenzo, in queste 2 ore e 30, cioè vogliamo evitare il più possibile lo scoppio delle banalità, delle frasi fatte, rammarico, eccetera eccetera, dispiacere, esatto, dolore, forte vicinanza, cose, esatto, ovvie, ovviamente, ovviamente perché, sono tranne, cose, tranne qualcuno, ma il 99.9% sono vicini al popolo belga, mi auguro. Ma sì, ma in generale i morti, a chi muore, belgio o non belgio, quelli che sono. Mentana a un certo punto interrompe il profluvio di dichiarazioni esprimendosi così, sentite. Il presidente Grasso ha parlato di un attacco simbolico e strategico, lo stesso ha fatto il presidente Boldrini, la presidente Caterina, ce le risparmiamo, no? Tanto sono, con tutto il rispetto, frasi che purtroppo in queste circostanze sempre vengono pronunciate, è doveroso forse che lo si faccia, possiamo però darle tutte per lette. Beh, è fenomenale questa cosa qua. Chissà perché si è interrotto proprio sulla Boldrini, però. Magari è un caso, per carità. No, dice, noi diamo notizie, non è che diamo dichiarazioni ovvie. Siccome purtroppo c'è, ripeto, un interminabile numero di dichiarazioni, a un certo punto ho detto, no, basta, tanto sono tutte uguali quelle dichiarazioni là. Numero uno assoluto di oggi, sul podio, sul nostro podio. Oggi non è che ci sono molti podi, ma comunque podio numero uno è ricomentato. Allora, podio numero due, decidete però che cosa significa, è il pianto, cioè il pianto, non dico il pianto greco, ma le lacrime. Adesso, per carità, possiamo anche immaginare che siano lacrime vere. La Mogherini la conosco da tanti anni, davvero. Era adesso vuoi criticare la commozione? No, ma tanto non volevo parlare della Mogherini. Lady Pesk, che è il ministro degli esteri dell'Europa. Non lo sa nessuno. Ma certo, vuoi provare ad andare al bar a chiedere? Ma la gente non è stupida, lo sa. Li fai più stupidi di quel ti che giuro, sono. Guarda, voglio fare un sondaggio nei prossimi il giorni. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea ha detto Lady Pesk, la signora Mogherini. Comunque, dato che hai chiamato la Mogherini, Salvini si è messa a piangere a un certo punto. Secondo te sono lacrime vere? Ma verissima. No, che no, per carità, è una domanda che voglio fare. Si è commossa, ma però che chissà scherzi. Perché poi avviene di fronte alle telecamere. Ma che c'è? Di fronte... si è emozionata, poi. Vabbè, comunque sentiamo. I will stop here, you will understand this. Today is a difficult day. Thank you very much. Thank you for your kind words. Thank you for and sorry. Questa era la Mogherini che piangeva, però c'è un altro personaggio che si è messo a piangere oggi. Si chiama Gianluca Buonanno. Ecco, ma si è messo questo, a piangere. Ecco, adesso questo mi fa incazzare veramente. Beh, ma perché devi essere così fazioso? Così... No, perché uno è un pagliaccio e strumentalizza ogni cosa in modo circense. Ma è gravissimo quello che stai dicendo. Mentre no, è vero, perché lo ha fatto in ogni atto della sua vita di teatralizzare e ma guarda che stai dicendo quello. Veramente delle cose gravi. Mentre altre persone che hanno un ruolo istituzionale diverso, è chiaro che lo hanno fatto. Cioè, con tu stai dicendo che da una parte i pianti della Mogherini sono veri e quelli di Buonanno questo. Sono una buffonata. Ma le persone che fanno le cose sono diverse, veramente, no? Guarda, saresti veramente da... Allora, uno come Buonanno, che ha passato la sua vita politica, poi quella privata non lo so, politica, a strumentalizzare queste cose, a fare il sei pagliaccio, veramente una vergogna, lo sai, che sei... è evidente che ha fatto. Comunque, usato con strumentalità. Guarda, secondo me all'inizio, siccome si è messa a piangere in due momenti diversi, due. La mattina e il pomeriggio, diciamo, la mattina, il pomeriggio dove mattino 5 e il pomeriggio dove D'Urso, pomeriggio c'è Buonanno in televisione. Quella era la differenza fondamentale che anche tu devi capire e far conoscere alla gente che ci ascolta. Dimmi è che mentre la Mogherini era una conferenza stampa internazionale in cui, diciamo, stava parlando non a favore di taccuine e di telecamere, mentre quell'altro era in un talk show televisivo rispettabilissimo, Mattino 5 e Barbara D'Urso, che c'entra? Quello è un luogo istituzionale. Quello è andato in un salotto televisivo a fare la sua pagliacciata, le sue false lacrime da coccodrillo. False lacrime da coccodrillo? Vabbè, sentiamo. Lui è così. A che ora aveva l'aereo, onorevole? No. Bisogna sempre arrivare prima. È solo. Lei, maledetta. Lei è riuscito a partire per l'aeroporto e poi ha fatto retromarcia? Oppure è stato blindato, bloccato da su? No, ho cambiato ieri. Ieri ho deciso di prendere quello delle 3:20. Ho cambiato idea per stare a fare altre cose in Parlamento. Quindi è stata una casualità. Questo è il pianto della mattina. Cioè, capisci che aspetta, è al lupo al lupo. Presente la favola di al lupo al lupo. Aspetta, può aspetta. Essere anche vero, ma visto il passato, io non ci credo. Aspetta, pomeriggio 5, replica, pomeriggio 5. Un altro pianto. Io stamattina, e anche adesso vedendo queste immagini, cioè, mi viene da piangere perché mi rendo conto che potevo essere lì e che è una cosa disumana. Cioè, non esiste che muoiono queste persone, non esiste questa cosa. È un disastro. Parenzo, ci credi? No, ma da uno che politicamente ha usato qualunque mezzo pur di andare sui giornali, vedi Buonanno, sì. Anche se questa volta fosse vero, e magari no, è vero. Tu hai detto che non è vero, che è una buffonata. No, io sto dicendo questo. Ho detto che la favola al lupo di Esopo. Allora, se tu che chiami Esopo, al lupo Esopo. Al lupo... Esopo. Se tu lo chiedi, se tu tutte le volte dici al lupo al lupo, sì. È evidente che questa volta, che magari è vero, ma non ci credi, perché tutte le altre volte precedenti ha talmente fatto il buffone e il pagliaccio su qualunque vicenda che anche questa volta uno rischia di dire vabbè, al lupo, dai, figurati, il solito Buonanno. Allora, è il rischio che ha corso. Ho capito, che corre. Fermo lì. Anna Migliorati, notizie, aggiornamenti, grazie. Allora, sì, cominciamo col dire Giuseppe che sta parlando proprio in questi minuti il premier belga Charles Michel e ha iniziato il suo discorso con una frase che un po' ci si aspettava ma che decisamente ha colpito, perché ha detto quel che temevamo si è avverato. Lo sentiamo, la conferenza stampa è in corso proprio in questi minuti. Si sapeva che dopo l'arresto di Salah Abdeslam si era alzato il livello di sicurezza, dunque nonostante l'arresto del super ricercatore, cercato. In realtà in Belgio era scattata l'allerta, il premier poco fa ha ammesso ce lo aspettavamo. Ha poi aggiunto: sarà una lotta senza quartiere e senza confini, quelle che il Belgio e i suoi alleati condurranno contro gli autori dell'attentato che hanno colpito oggi Bruxelles. Conferenza stampa in corso dalla quale ci attendiamo anche di avere una versione ufficiale di quanto è accaduto, aggiungendo che però è in corso proprio in questi minuti anche un'operazione nuovamente a Bruxelles. La polizia belga questa volta è impegnata in un'abitazione in un altro quartiere che non è Molenbeek, a cui ci eravamo abituati in questi giorni, ma Schaerbeek. Anche qui si sta cercando probabilmente quello che dopo Salah Abdeslam è ora il nuovo ricercato numero uno ed è uno dei tre attentatori dell'aeroporto. Ne abbiamo visti due spingere un cardello vestiti di scuro, ce n'è un terzo con un cappello e vestito di chiaro. La polizia belga ha diramato via Twitter, ma non solo, attraverso anche tutte le TV belga, la richiesta con tanto di numero verde a chiunque l'abbia visto, rintracciato, abbia seguito i suoi movimenti, di farsi vivo. Segno che questo è considerato tra i ricercati sicuramente quello più importante. Conferenza stampa in corso, sta parlando anche il procuratore belga proprio in diretta TV, ve lo diamo mentre sta accadendo, mentre stiamo cercando di seguirlo, e il procuratore che accanto al primo ministro belga ha detto che in realtà la rivendicazione dell'ISIS è ancora da verificare. Probabilmente questa una dichiarazione di prassi, perché ovviamente va come sempre tutto verificato. L'abbiamo detto, c'è questa dichiarazione dell'ISIS che tra l'altro annuncia anche nuovi attacchi, ma d'altra parte lo aveva fatto anche dopo Parigi. Diciamo, ripetiamo, il primo commento ufficiale del primo ministro belga è stato: purtroppo è successo quel che temevamo. La Zanzara, speciale Bruxelles. Allora, però io vorrei ragionare sulla definizione di sciacalli, no? Perché si parla subito di politici sciacalli che cominciano a twittare o a fare dichiarazioni subito dopo gli attentati. Per esempio, sulla rete, non solo sulla rete, Renzi, dunque non la rete, il Presidente del Consiglio, ha dato sostanzialmente dello sciacallo a Salvini, a Matteo Salvini, perché Salvini era all'aeroporto, stava per partire, è dovuto tornare indietro, ha cominciato, come si fa di solito in questi casi, secondo me, a parlare, a twittare, a dire la sua sugli attentati, ed è stato definito uno sciacallo, lo sciacallo Salvini. Sentiamo Renzi. Non è dunque il tempo degli sciacalli, ma non è neanche il tempo delle colombe. Ci vuole un patto europeo, un patto per la libertà e la sicurezza. Lasciamo perdere il patto europeo per la sicurezza, eccetera, eccetera, che sono frasi fatte, ma io non ho capito chi è lo sciacallo. Cioè, lo sciacallo è uno... Ma lo sarebbe che... perché? Perché sta documentando, lo vedo, tutto quello no, che perché, fa. Ma no, perché sta... davanti no, alla perché ha cominciato chiusa, a fare dichiarazioni, per, vabbè, bisogna fa andare quartiere per quartiere, bisogna... no, le moschee, eccetera, eccetera. Ma è normale, cioè, quando succedono delle cose che riguardano l'Islam, che riguardano un attentato, i politici dichiarano, poi possono dichiarare delle cazzate, possono dire delle cose più o meno demagogiche, eccetera, eccetera. Ma dov'è lo sciacallaggio? Cioè, non capisco dov'è lo sciacallaggio. Lo sciacallaggio è magari quando succedono delle tragedie casuali, che può essere l'Erasmus, eccetera, eccetera, e uno fa delle dichiarazioni inutili su delle cose, quello è sciacallaggio, diciamo, il protagonismo, no? Quella è. Non capisco che cosa significa i politici sciacalli. Certo, poi ci sono le frasi fatte, per esempio, sentiamo la Santanchè: siamo in guerra. Santanchè. Credo che ci dovremmo abituare sempre di più, che siano gli aeroporti, che siano altri luoghi di aggregazione, però siamo in guerra. Siamo in guerra, Parenzo, hai capito? Siamo in guerra. Te l'ha detto sì. la Santa Chiesa, siamo in guerra. Sì, va bene. Un altro è Casini che ha detto, perché poi ogni tanto parla Casini, eh? A meno Casini che non sia come sono esteri, vi pare. Sì, non lo so, che dovremmo rinunciare a una parte delle comodità. Ci viene a raccontare che dovremmo rinunciare a una parte delle nostre comodità. Cioè vuol dire che fare cazzo? Quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Ma sì, ma perché uno deve dire, dovremmo rinunciare in base a che cosa? Chi lo dice? Non sei nessuno, ma non sei nessuno per dirlo. È un politico, ma non sei nessuno. Sentiamo. C'è un problema che riguarda la sicurezza, c'è un problema che riguarda le abitudini quotidiane e anche le comodità, una parte delle quali è ovvio che dovremmo rinunciarle. La russa! I terroristi. La russa. È tornato. Ogni tanto parla. Sì, ogni tanto parla. I terroristi non usano Islam, ma sono islamici. Questa non l'ho capita, però sentiamo. Io credo che è una bugia enorme che non deve più passare, dire che il terrorismo islamico usa l'Islam. Sono islamici che credono che il Corano imponga quella strada. Non ha tutti i torti però la Russone in questo caso, eh? Sì, non ho capito Feltri, bene il senso, cioè, dice che è l'Islam in sostanza, è la discussione, cioè è l'Islam che fomenta gli attentati. Oh, l'Islam politico l'Islam. Radicale. L'Islam, dai. Feltri. Che abbiamo ospitato qualsiasi tipo di islamico senza curarci di quella che chiamiamo integrazione che gli stessi islamici fingono in un certo senso di praticare, di accettare, ma poi in realtà rimangono legati alle loro tradizioni, al loro spirito violento, e tutto questo complica lo scenario. Allora, vi leggo una cosa che mi hanno mandato, scacco matto in tre mosse, da un sito che si chiama Thank You Oriana Fallaci. Fase 1, quando i musulmani costituiscono l'1-3% della popolazione, il loro comportamento nella società è tranquillo e non invadente. Fase 2, quando i musulmani costituiscono il 4-20% della popolazione, cominciano le richieste politiche, come la costruzione di moschee, minareti, il divieto di cerimonie cristiane ed eventi e celebrazioni di feste musulmane come il Ramadan. Ripeto, fase 2, quando i musulmani costituiscono il 4-20% della popolazione. Fase 3, quando i musulmani costituiscono oltre il 20% della popolazione, inizia una guerra santa, le aree musulmane della città, ghetti, diventano inaccessibili ai non musulmani, comincia la piena attuazione delle leggi della Sharia, insieme agli attacchi terroristici per la secessione e la creazione di uno Stato islamico. Massimiliano, provincia di Ravenna, vai. Buonasera. Dimmi. Buonasera a tutti. Niente, volevo dire se per caso è necessario avere un microscopio per trovare un islamico che collabora con la giustizia belga o francese o italiana per tirare fuori questi terroristi. A me sembra che l'Islam cosiddetto moderato sia una fantasia della sinistra europea. Io cioè non per, te non esiste, per te non esiste Islam ma non, moderato? Nei fatti non esiste, nella vita quotidiana voglio vedere qua, se lei che Parenzo quante manifestazioni di affetto, di simpatia ha avuto da un islamico o di cordialità, ben poche. Se non forse in qualche intellettuale con qualche laurea, ma qui parliamo dell'un per mille della popolazione islamica. Se parliamo di persone normali... Cioè tu hai paura degli islamici, hai paura dell'Islam, sì o no? Certo che ho paura, solo uno stupido può non aver paura. Alessandro Milano, ho capito, Alessandro Milano, vai. Sì, questa qui è una guerra, Cruciani, questa qui è una guerra e qui siamo già alla fase 3. Siamo in una situazione... Cioè la fase in cui i musulmani costruiscono oltre il 20% della popolazione. Certo, esattamente. Sì. Cioè e quando costruiscono oltre il 20% della popolazione cominciano a essere un pericolo. Questa e è guerra, cosa bisogna fare? Cioè sono vigliacchi, sono, sì? Colpiscono in maniera vigliacchi, bisogna rispondere alla stessa maniera, si bombarda. Sono si bombarda dove? Molenbeek, che si bombarda? Di paesi in Occidente oppure i che ne so? I quartieri di Bruxelles. Che cosa? Chi si bombarda? No, cosa? È pazzo questo. No, è pazzo di che cosa? Si bombarda cioè cosa vuoi bombardare? Il quartiere di Bruxelles? Che cosa vuoi bombardare Alessandro? Non ho capito. L'ISIS. Dove allo Stato islamico, vuoi fare la guerra totale allo Stato islamico. Quello è giusto. Sì, bello, certo, infatti, perché loro che cosa fanno? Alessandro, fermo lì. No, ma quello di bombardare, si parla da tempo di bombardare l'ISIS, poi ci sono mille problemi, lo Stato islamico. Ci fermiamo qui, le notizie tra poco, noi torniamo 19:15, sempre con i vostri interventi. Anna Migliorati torna fra poco, non vi preoccupate. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. speciale Bruxelles. Ciao Cruciani, mezz'ora fa due islamiche del cazzo con il loro chador hanno voluto entrare a tutti i costi nel mio taxi. Gli ho detto che niente da fare, il mio taxi è un servizio pubblico e viene associato e è assoggettato ai luoghi pubblici, di conseguenza come da emanazione a legge regionale, se si tolgono quel cazzo di velo bene, se no niente, li ho lasciati a piedi sotto il sole. Cazzi loro, adesso va a fare in culo, mi ha rotto il cazzo ste merde. Poche balle, Magdi Cristiano Allam l'ha segnalato, la Sura 8 versetto 12, dal 12 al 18 mi pare, avete esattamente la spiegazione e le istruzioni del perché si debba praticare il terrorismo, andate a leggervele signori, Islam moderato non esiste. Chiudere le frontiere. Allora, abbiamo in onda, abbiamo in collegamento lo sciacallo. Sciacallo Salvini, buonasera. Buonasera. Sì, me. Allora, no, perché sciacalli che complici imbecilli. Allora, no, leggo qua tra tutte le critiche che sono arrivate oggi, perché per il fatto che tu eri all'aeroporto e hai cominciato a fare dei post. Ma vi sembra normale che con 34 morti ci sia gente che ce l'ha con la Lega e con Salvini? Ma vi pare normale? Un tuo collega maltese ha scritto: sono 73 gli europarlamentari italiani a Bruxelles, la maggior parte sono in questo tragico giorno qui nella capitale d'Europa, ma soltanto uno, Matteo Salvini, ha avuto il sangue freddo, la mancanza di scrupoli e di dignità umana di inviare tweet e selfie dall'ingresso del Parlamento europeo davanti alle camionette dell'esercito per speculare al volo sulla tragedia che ha spezzato decine di vite innocenti e distrutto tante famiglie. Capito? Questo in tempo di guerra sarebbe definito un collaborazionista. Io lo definisco più semplicemente un coniglio che preferisce tacere, preferisce avere paura. Io voglio urlare il fatto che non mi rassegno a vivere nella paura. E quindi se qualcuno preferisce abbassare le orecchie e stare zitto così non rischia niente. Sì, ma perché dice abbassare le orecchie? Ha scelto un altro profilo. La critica non è questa. Ma cioè, ragazzi, allora, strage di Charlie Hebdo, io dico occhio all'Islam, controlliamo chi entra in Italia, sono sciacallo. Strage di Parigi, io dico occhio all'Islam, no, controlliamo chi entra critica, in Italia. No, ma Matteo, la critica è un'altra. La critica strage è il fatto di Bruxelles, no. Io dico è normale avere l'esercito che presidia palazzi, strade, autostrade, il Parlamento europeo con i funzionari col giubbotto antiproiettile all'ingresso, è normale? No, ma infatti però la critica è un'altra, la critica è il fatto che tu, diciamo, dopo un secondo ti sei messo a fare comunicazione. Un attimo, a differenza di altri deputati. Il buon Dio che ringrazio, non è il mio momento, per fortuna. Io un quarto d'ora dopo sarei stato in quel fottutissimo aeroporto. Potevo essere un po' scosso, potevo essere un po' preoccupato. No, ma questo non c'entra. La critica è il fatto che tu hai messo a fare come. Zitto. Un attimo, insomma, ma a me lo dici, per me, infatti. Non è sotto assedio, ci sono 34 morti e gironzolo. Aspetta un attimo, che c'è una novità, però aspetta, c'è una novità. Anna, che allora c'è una novità, perché dicevamo delle perquisizioni in corso, potrebbero già aver trovato almeno una delle case dove hanno lavorato gli attentatori nel quartiere di Sherbeck, trovati un ordigno esplosivo con chiodi, prodotti chimici, una bandiera dell'ISIS in una delle case che subito hanno perquisito, il che significa che sono andati in pochissime ore a trovare almeno una di queste case. Potrebbe essere la bomba, la casa giusta, anche perché appunto oltre alla bandiera dell'ISIS e questi prodotti chimici hanno trovato dell'esplosivo con i chiodi, esattamente come le bombe che sono esplose in aeroporto. Va bene, Giuseppe. Vedremo. Salvini, queste sono case figlie dell'accoglienza, figlie del buonismo. A Bruxelles ci sono interi ghetti islamici dove la polizia ha paura di entrare. Devo tacere? Devo far finta che vada bene così? Devo dire ma sì, facciamoli entrare. No, ma non è il contenuto, scusa Matteo, qui non è in discussione il contenuto, ragazzi, ognuno dice quello che vuole e secondo me una persona è che il fa tempismo. Una persona, sì, però io per me Salvini può anche dire devo parlarne il giorno dopo. Ma ha ragione morti. Lui, ma perché no, non ma io dico, ma io non lo so se può parlare o non può parlare, è una polemica che non mi interessa. No, che non ti interessa. Dico, è sciacallo per te, sì o no? No, per me non mi interessa. No. Ma dico, ci sono alcuni deputati che hanno fatto la maggior parte scelte diverse, quelle di stare lì, lavorare. Cioè, non è che per questo hanno paura. Questo io dico che Salvini. Vuol dire lavorare? Ma che hanno ma fatto? Ma non è che saranno stati lavorare, lì a seguire le notizie, lavorare? A fare quel che devono fare. Non è che tutti i deputati sono messi a twittare, oh, sono qui e c'è. Ah, lui ma non è che lui ha detto diversa. Ha detto sono qui e poi. Ti sto dicendo che non è che per questo. Quelli che non hanno fatto la scelta di Salvini sono dei conigli. No, ma chi lo dice? Lui. No, lui ha dato del coniglio a Curcio Matteo. Lui dice che siccome... Dimmi. Che secondo me, l'ha detto il presidente francese Hollande, socialista, siamo in guerra, ci hanno dichiarato guerra. Sono sciallo, se ripeto, quello che ormai è evidente a però tutto, non diciamo frasi della luce, tranne che a Renzi e alla Boldrini. Non diciamo frasi fatte. Allora, la domanda è questa, molto semplice. Ma secondo te il governo italiano, eccetera, di chi è la colpa di queste stragi? No, la colpa, allora, innanzitutto... non ci sono bacchette magiche, quindi Salvini non meno viene da Cruciani e Parenzo a dire votatemi che ci penso io perché siamo tutti al sicuro. No, fino all'altro, questo è un passo in avanti, perché fino all'altro ieri dicevi robe diverse. No, penso. No. Però no, fino all'altro ieri dicevi se ci fossi io al governo, ruspe! Posso finire? Con vai. Cortesemente, ecco. Io al posto di Renzi i controlli alle frontiere stasera li reintrodurrei. Eliminano il problema? No. Fanno un po' di prevenzione? Sì, l'Olanda ha bloccato le frontiere col Belgio, la Francia ha bloccato le frontiere col Belgio, in Italia in questo momento a Ventimiglio, al Brennero, a Trieste entrano... Però tu hai parlato anche oggi di complici, cioè complici nei governi italiani, in Europa. Sì, se tu non controlli le frontiere, Alfano oggi ha detto in conferenza stampa che dopo questo attentato... espellerà degli immigrati pericolosi che sono in Italia. Ma quello dai, lo già è stato fatto. Non erano pericolosi ieri. Sì, già lo fa il governo. Della gente pericolosa. Però ci sono stati complici di questi attentati, allora? Il governo italiano è tra i complici di questo attentato? Sì, ma l'Europa che dorme è assolutamente complice. E dunque Renzi anche lui? Renzi, nel momento in cui dice sì a dare 6 miliardi di euro alla Turchia sotto il ricatto dei migranti, Turchia che finanzia l'ISIS. Vabbè, allora? È complice. Perché con quei soldi poi i terroristi ci comprano le bombe. Complice del terrorismo. E fanno saltare per aria a Bruxelles ammazzando papà, mamme e bambini che vanno in metropolitana per andare a scuola o in ufficio. Chi aiuta chi finanzia l'ISIS è un complice di questi terroristi. No, chi non controlla le frontiere è un complice. Chi non espelle i clandestini è un complice. Vabbè, tu stai dicendo che fino adesso i governi europei, e anche Renzi è complice. No, anche Renzi è complice del terrorismo. E questa è la cosa. Cioè, vabbè, fermo un attimo che c'è il traffico, e poi torni sera al traffico, la borsa, quello che è. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. La Zanzara. Speciale Bruxelles. Allora, caro David, siamo in collegamento con lo sciacallo Salvini da Bruxelles in questa giornata drammatica. No, vabbè, ma sto ironizzando, Matteo, dai. T'hanno chiamato, c'è addirittura un hashtag su internet, cioè Salvini sciacallo. No, vabbè, ma ti ripeto, magari qualcuno sarebbe anche contento se io in quell'aeroporto ci fossi arrivato dopo Tra l'altro, sì, ho letto anch'io. Non dice anche scritto su Facebook, è peccato che Salvini non fosse già arrivato. Peccato, potevamo eliminare Salvini, Internet è pieno di idioti, come sai, quindi molti dicono peccato, cioè, per un pelo Salvini non ci rimaneva senza. Ci potevamo liberare. Qualche imbecille. Ci sono hashtag, infatti è pieno di idioti la rete, lo sappiamo, io l'ho sempre detto. Comunque posso dire che il complice è chi non fa. Ti faccio un esempio. Chiamate al telefono un poliziotto o un carabiniere qualsiasi. Fate intervenire un poliziotto o un carabiniere. Non possono parlare di soli. Antiterrorismo sono 6 ore durante l'anno. Voi mi domandate come possiamo formare i nostri uomini e le nostre donne delle forze dell'ordine a combattere il terrorismo? Cioè, tu stai dicendo che le forze dell'ordine italiane non sono preparate ad affrontare il terrorismo? Cioè, sono messe in condizione di farlo. No, vabbè, ma non sono preparate, sono impreparati. Hanno macchine da 300.000 km. Vabbè, ma al di là delle macchine, non è che si combattono il terrorismo con le macchine. Chiamate Gianni Tonelli del SAP. Sì, quello che ha fatto lo sciopero della fame. Informazione antiterrorismo hanno guarda fatto che dicendo così non fai un favore alle nostre forze di polizia e a chi si occupa di sicurezza, perché non è così. Le nostre forze di polizia, ma se non li mettono in condizioni di prepararsi e di combattere, cosa? Però due domande, Matteo. Cosa? Con i gessetti colorati. Stai dicendo però che le forze di polizia italiana oggi fanno l'antiterrorismo con i gessetti. Non sono messe in condizione di lavorare. Ma non e i servizi segreti funzionano o no? Ma mi auguro di sì. No, mi auguro, sì o no? Non lo so, non è una realtà. Alfano dice che evitiamo un sacco di attentati, non si sa, ma riusciamo a evitare fino comunque, oggi l'intelligence. Allora giù il cappello ai nostri servizi segreti. Ma siccome ma so scusa, come lavorano polizia, ma degli arresti sono stati anche fatti in Italia, se no dici cose però, false. Nelle scorse settimane sono stati fatti degli arresti, proprio in Trentino peraltro. 800 miliardi di euro di spesa pubblica all'anno, può spendere qualche milione di euro per dei corsi seri. È la solita cosa che l'opposizione di qualunque colore essa sia, ogni volta che capita una cosa di questo tipo dice si può fare di più. No, dico sulla polemica scusami Matteo, un'ultima cosa però è questa, ma la vicenda di quello catturato, no, tu la faresti la tortura per ottenere informazioni anche alla luce di quello che è successo? Parlare in ogni maniera, ma vi pare normale che questa bestia qua abbia uno dei migliori avvocati di Bruxelles che si permetta di opinare? No, non faccio l'estradizione, vuole, cioè non dovrebbe avere l'avvocato? Ma che c'entra? Ma questo non dovrebbe avere nessun diritto umano. Ma si chiama stato di diritto da noi, la differenza che c'è tra noi è la barbarie, scusa. E cioè come trattata, come? Barbarie. Civis pacem parabellum, ragazzi, stiamo parlando. E allora quindi vanno cattino, sospesi i diritti civili di tutti. Ma pedate, cioè vanno sospesi i diritti civili fino a che non parli. Cioè, scusami, i denti fino a che non vanno parli. Sospesi i diritti civili. Non ha, no, vanno sì, cioè, la differenza tra noi, tra differenza tra noi e loro, e parte di loro, e l'ISIS, ad esempio, è esattamente questa. Lui sta dicendo un'altra cosa, che questo qua dice che non ha diritto alla difesa. I diritti civili ci facciamo. Ci puliamo. Ci facciamo sottomettere. Io questo Salah, che non è il giocatore della Roma, che invece sta parlando, che sì, sta parlando, parlare a calci sui denti, che sta parlando, infatti, e sta, secondo l'intelligence, sta dicendo delle cose utili per le indagini, visto, anziché pensare alla tortura. Hai visto come hanno parlato i diritti civili di Parento? No, ma ragazzi, in Italia, un'ultima cosa, gli islamici vanno controllati. Diritti civili? Ma che diritti civili? Ha il diritto alla difesa come qualunque però, altro. Scusami, sta fornendo informazioni utili all'intelligence, peraltro. Ma una palla al piede, lavori forzati per il resto della tua vita. Ma chiedilo a chi lo ha arrestato se non sta una parlando, scusa. Ferro al piede, lavori forzati per il resto dei tuoi giorni. Un'altra cosa è questa, ma gli islamici italiani vanno controllati uno per uno dopo quello che è successo? Gli islamici italiani? Ma quelli, no, fortunatamente non tutti gli islamici sono delinquenti, altrimenti saremmo messi malissimo, visto che sono alcuni milioni. Pensavo che volessi dire non tutti gli islamici sono delinquenti, però... Però tutti i terroristi ultimamente sono islamici, questo non lo dice Salvini, ma questo è purtroppo è la cronaca. Cioè va fatto il problema sta alla radice nella storia fra Islam e resto del mondo ebraico, occidentale, cristiano, cattolico. C'è sempre stato conflitto, perché per loro il problema non è che è solo una religione, perché per un cattolico, un buddista, un ebreo, un valdese, un protestante, Dio è Dio, la legge è la legge. Per l'Islam è Dio ti impone la legge, come vivere, come lavorare, come mangiare, come bere, come cantare. Comunque credo che domani i cosiddetti moderati si diano una smossa, si diano una comunque sveglia, domani si facciano vedere. Credo che domani Libero rifarà un altro titolo uguale, Parenzo, ho avuto questa specie di soffiata simile a bastardi islamici, molto molto simile, molto molto simile. Io vorrei vivere in pace. Io vorrei vivere in pace, ma in questo momento per vivere in pace bisogna fare la guerra. Allora ragazzi, andiamo a Catania. È curioso però che per Salvini tirar fuori le palle vuol dire fare i selfie con la polizia dietro e perché non gli hai detto, scusa, ma perché l'ha detto adesso, infatti io lo stavo dicendo, questo è curioso. Vabbè, ma che c'entra adesso, prima hai detto che non era uno sciacallo, adesso dici che è praticamente uno sciacallo. Non lo reputo uno sciacallo, a differenza sua che reputa Maltese e altri deputati che non hanno fatto tweet dei conigli. Io questo, ma le parole però sono chiare, perché si chiama radio, lui no? Ha detto che è un coniglio, cioè io ho detto che lui attacca quelli che non hanno fatto nulla, cioè non se la sono sentita fare tweet e cose dicendo che sono dei conigli. Ha detto che Curzio Maltese è un conigli. Scusami, e tutti gli altri, perché la maggior parte dei deputati non mi pare che siano messi oggettivamente lì a fare selfie. Ma però fare i selfie come fa lui, selfie, ha fatto delle foto davanti alla camera della polizia. Io non o fare una dichiarazione scritta all'ANSA, che differenza c'è? Ma sì, ma è uguale, è legittimo. Io facevo la polemica su quello che ha detto lui. Ma uno lo può considerare sciacallo. Ha detto che sono dei conigli quelli che non hanno fatto le sue stesse considerazioni. Ciao ragazzi, onestamente sicuramente devo spezzare una lancia a favore di Salvini, anche se la Lega ci ha sempre sputato a noi siciliani, per il fatto che chi financia questi personaggi? Beh, pare, per esempio, lo Stato Islamico, l'Arabia Saudita anche, dicono. Certo. Bravo, l'Arabia Saudita, le basi di questi personaggi dove sono? In Siria, giusto? Ma anche, sì. Allora, anche, non solo. Sì, la Siria è praticamente uno Stato che gli sta sui coglioni ai sauditi. C'è tutta, poi cosa hanno fatto queste persone, questi stati, questi cosa hanno fatto dopo il 13 di novembre? Dopo Charlie Hebdo, non lo so, non ci hanno detto, perché è successo. Conclusione: che ci prendono per il culo, sono tutte prese per il culo. Ma chi ci piglia per il culo? Chi ci piglia per il culo? Ma chi ci governa? Vabbè. Generico, chi ci governa? Scusami, Giuseppe, è inutile che oggi Renzi fa tutto quanto quello, chi gliela scritte quelle parole a Renzi? Che poi te ne vai dai sauditi. Vabbè, ma quelle sono i Rolex, ti vai a prendere i Rolex. No, sull'Arabia Saudita si può discutere, ma è chiaro che perché non ci hanno protetto? Ma questo è il problema. Allora, un parlamentare belga, un attimo, stai zitto un attimo. Sì, un attimo solo, Franco, un attimo. Allora, un parlamentare belga oggi dice: o i nostri servizi di sicurezza sono incompetenti e incapaci di proteggere luoghi sensibili come l'aeroporto nazionale o la metropolitana, oppure sono all'origine di questi attentati. Lo dice un parlamentare belga. Ah, oppure sono all'origine, cioè all'origine, ci sono loro dietro. Dice, all'origine, un parlamentare belga. Ma parlamentare di che schieramento? Non lo so, ma non è un parlamentare estremista. O i nostri servizi di sicurezza sono incompetenti e incapaci di proteggere i luoghi sensibili come l'aeroporto nazionale o la metropolitana, oppure sono all'origine di questi attentati. Anna Migliorati, aggiornamento. Allora, sì, gli aggiornamenti nelle ore della caccia ormai al comando che ha agito, ma anche nel timore che qualcosa possa ancora succedere, perché nel corso delle perquisizioni, dicevamo, nel quartiere di Schellenbeck a Bruxelles sono stati ritrovati un ordigno esplosivo con all'interno chiodi, prodotti chimici e una bandiera dell'ISIS. Anche le bombe usate all'aeroporto, ricordiamo, contenevano chiodi. Ma le forze speciali sono ancora nel quartiere, che è presidiatissimo in questi minuti, e le manovre degli agenti, almeno stando a chi è sul posto, sembrano indicare anche la possibilità di un imminente raid, che potrebbe essere nella casa dove già le forze dell'ordine sono entrate, ma anche in altre case vicine. Il che significa che gli inquirenti sono sulla traccia, almeno di dove potrebbero essere state fabbricate alcune di queste bombe. Ricordiamo che due attentatori all'aeroporto si sono fatti esplodere, ma almeno uno, come fece Salah Abdeslam, non si è fatto esplodere ed è invece in fuga, e c'è un identikit, e ci sarebbe anche un altro super ricercato che sarebbe fuggito e non sarebbe morto negli attentati. Perquisizioni che sono in corso un po' in tutto il paese. All'aeroporto è stato trovato questa sera altro materiale esplosivo che non sarebbe riuscito ad esplodere questa mattina, e quindi anche questo conferma che probabilmente si puntava ad un attentato ancora peggiore. I controlli sono scattati anche altrove, anche la polizia di Amsterdam è intervenuta questa sera alla stazione centrale di Amsterdam sparando colpi di avvertimento prima di procedere all'arresto di tre persone, non si sa però ancora chi siano. Sono anche le ore del cordoglio, soprattutto a Parigi, la città dove ovviamente quanto è accaduto oggi a Bruxelles ha colpito maggiormente le coscienze, perché piazza del municipio di Parigi è gremita di gente in questi minuti in omaggio alle vittime degli attentati di Bruxelles, come lo fu dopo gli attentati proprio nella capitale francese. La Torre Eiffel si è accesa di giallo, rosso e nero, lo hanno fatto in realtà molti monumenti in diverse città europee, anche il Campidoglio in Italia. L'allerta è scattata anche in Germania. Giuseppe, ti aggiungo che proprio poco fa l'Associazione degli Aeroporti Tedeschi ha diramato una nota dicendo che un completo controllo agli ingressi degli scali in Germania è di fatto impraticabile. Queste almeno sono le ultime notizie, naturalmente vi terremo aggiornati. La Zanzara, speciale Bruxelles. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Allora, caro Parenzo, in questa giornata un po' speciale, in questa zanzara un po' speciale, che è sempre zanzara, però insomma, dipinta in un altro modo, ma siamo sempre noi, qui fino alle 21. Abbiamo un ospite, sì, che non è un ospite tradizionale, che dice delle cose scontate, le versioni ufficiali, eccetera, eccetera, che ha una sua idea tutta originale, se vogliamo, sugli attentati, credo almeno, sugli attentati, sull'Islam, eccetera, eccetera. Massimo Fini, ciao Massimo, come stai? Ciao, saluti, ecco, a te e a David. Ciao, allora Massimo, è anche colpa nostra, ti faccio subito una domanda diretta, è anche colpa nostra, cioè dell'Occidente, sì o no? È soprattutto colpa nostra. Addirittura. Io avevo scritto, credo 3 anni fa, prima degli attentati a Parigi, in Charlie Hebdo, eccetera, sì, che questi avrebbero portato la guerra in Europa. Perché è chiaro che, essendo l'Occidente, usiamo questo termine, è entrato con le bombe, con i droni, con i bombardieri, nella una guerra che era loro, sciiti e sunniti, sì, e facendo alcune decine di migliaia di morti, e questi a un certo punto avrebbero reagito portando la guerra in Europa nei modi in cui qui è a loro possibile, e cioè con l'attentato terrorista e kamikaze. Tu però metti sullo stesso piano, da questo punto di vista, diciamo, azioni di guerra, chiamiamola così, degli occidentali e kamikaze e terrorismo. Cioè, un conto sono gli obiettivi militari. Sono sullo stesso piano, secondo te? No, direi che noi siamo sotto. Cioè? Cioè siamo peggio. Da una parte, prendi la situazione laggiù. Laggiù ci sono uomini che combattono e si battono, direi con grande valore, contro macchine, perché noi usiamo droni, usiamo bombardieri, non abbiamo truppe sul campo, no? Sì. E quindi almeno si implicano. E anche qui, quando vengono a fare questi attentati che a noi giustamente spaventano, però mettono in gioco totalmente la loro vita. Cioè, tu stai dicendo che il kamikaze è una sua nobiltà? Sì, certamente. Mentre il perché noi abbiamo il prezzo. Scusami, noi abbiamo il valore della vita, però, scusami, Massimo. Io capisco il tuo punto di vista, ma l'Occidente, a differenza di queste barbarie qui, ha la tutela della vita. Ma lui dice di no, perché nostri... andiamo ad ammazzare. E come no? Ma noi andiamo su obiettivi militari e abbiamo il valore della vita, per cui anche un soldato nostro morto è un dramma per l'Occidente. Questa è la differenza, Massimo, fondamentale. Massimo. Parenzo, quando si parla di cose serie, vai a giocare a biglie, che è meglio. Scusami. Aspetta, fai venire. Noi abbiamo fatto, siamo all'attacco del mondo musulmano, che io non amo affatto, ma del mondo musulmano da almeno 15 anni. Ma quale mondo attacco? Allora, siamo all'attacco del fondamentalismo. Devo ripetere la litania: guerra all'Afghanistan nel 2001. Fondamentalismo. Guerra all'Iraq. Poi? Guerra alla Somalia, per interposta Etiopia. Guerra alla Libia, che è la cosa che, tra l'altro, credo tutti gli ascoltatori possono capire, nel senso che siamo andati a fare una guerra sradicando un dittatore che comunque teneva in piedi la situazione, e abbiamo combinato quello che abbiamo combinato. Tu stai dicendo che siamo peggio noi dei terroristi? Assolutamente sì. Cioè, noi siamo peggio di quelli che hanno fatto le stragi, per esempio, in Belgio? Sì, perché siamo molto più ipocriti. Cioè, ammazziamo lo stesso, ma veliamo le nostre stragi con l'intervento umanitario. Invece dietro c'è solamente business. Scusami, io rispetto Massimo, perché lo conosco da anni. C'è il vecchio, insomma, adesso sarebbe lungo il discorso, ma insomma è la terza forma del colonialismo occidentale. Ma fermiamoci, ripeto, solo agli ultimi 15 anni. Noi abbiamo fatto centinaia di migliaia di vittime solo in Iraq, sono state dalle 650.000 a 750.000. Allora io non posso mettermi a piangere perché qui in Europa questi rispondono e ne fanno qui. Cioè, scusa, è terrorismo, Massimo, ma c'è una differenza. Io rispetto questi morti, scritto, quanti dici, saranno alla fine, questi morti, 30, 34, 36, quelli che saranno, non ti scalfiscono rispetto, cioè non ti toccano per nulla queste morti in Belgio. Non ti tocca, no, cioè, ma come si fa? Scusami. No, ma fallo parlare. Sto cercando di interloquire, che è una roba impossibile, altrimenti. Vai, Massimo. Quando c'è stato, ti ricorderai, la prima guerra del Golfo, no? La prima guerra del Golfo con i missili intelligenti, le bombe chirurgiche, I morti sono stati civili, 169.000, questo per è ufficiale perché sono dichiarazioni del Pentagono. Ma cosa vuol dire? Del Pentagono, e dunque? Di cui 32.195 bambini, che non sono meno bambini dei nostri bambini. Ma certo, ma cosa vuol dire? Ma che, di che parliamo? Ma di che parliamo? Ci sono dei morti civili oggi, vittime del terrorismo, non di una guerra, del terrorismo. L'Occidente fa la guerra a uno stato terrorista. Fini, ma fini. È una differenza fondamentale. Ma che fini? Fini Massimo. Un cazzo! Ma è completamente diverso. Ma ragazzi miei, ma come si fa anche oggi a dimenticare Massimo, i fondamentali? Massimo. Io capisco che lui scrive libri suggestivi. Vabbè, siccome ed gli hai detto, Parenzo, che ti ho fatto una prefazione, un ma libro. Ma scusami, ma lo so, sei un intellettuale. Ma che detto, ha appunti, gli hai detto fini un cazzo, gli hai detto. Ma sì, perché in un contesto come questo io rispetto le posizioni le più diverse dalle mie, ma come si fa a parlare, a non parlare di terrorismo oggi, di obiettivi civili ma colpiti, se uno ha un'altra gente idea, inerme, ma se ma uno ha sto un'altra dicendo, idea ho la, capito, ma non è che lo sto mandando a rogo. Beh, non lo sto mandando a rogo, stai dicendo fini un cazzo, sto dicendo sì, fammi finire, sto dicendo aspetta, fini un cazzo, fammi finire, sto dicendo come si fa a mettere sullo stesso piano un attentato terroristico nel cuore dell'Europa a obiettivi civili, non militari, ma non c'è da spiegare, non puoi spiegare un dato di fatto, cosa vuol dire spiegare? Massimo. Che spieghi, cosa spieghi? Massimo. Niente spieghi. Hai sentito? Sì, ho sentito. Spieghi. È che Davide, come tanti altri, non capisce che noi stiamo facendo uguale terrorismo, solo che terrorismo di Stato, non solo. Siccome lo facciamo con le macchine, a noi non ci fa impressione. Ma sai la differenza tra obiettivi militari e obiettivi civili o no? Perché se no di cosa stiamo parlando? Lui, secondo lui, scusami, secondo lui, ma non secondo è lui chi? Ma scusa, che dite? Ma se è una follia. Ma scusa un attimo. È l'ABC del diritto internazionale, del diritto di guerra. Ma colpisce un obiettivo e fa 150 morti civili, mamma, che cos'è? Ma l'Occidente, no, come lo chiami tu, quando un'ipotesi completamente opposta. Ma l'Occidente non si pone l'obiettivo di fare stragi di bambini e di civili quando fa la guerra allo Stato islamico? Lui sta dicendo basta che dire stupidaggini. Lui sta dicendo tutti. Che il risultato è lo stesso. Ma lui sta dicendo che il risultato è anche peggio, no? Ma l'obiettivo militare è un'altra cosa, chiedetelo a chiunque. Voglio chiedere un altro paio di cose a Massimo Fini dopo la pubblicità, Massimo, ti richiamiamo un attimo, fermi qui 800 24 00 24, WhatsApp 393 71 71 701. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. La Zanzara, speciale Bruxelles. Eccoci, 800 24 00 24, 393 71 71 701 per i WhatsApp, Zanzara speciale su Bruxelles. Siamo sempre noi, Parenzo, Ci sei? Sì, come no, ci sono. Leggendo una cosa che voglio però verificare prima di dartela. Allora, scacco matto in tre mosse. Oggi ho letto questo, volevo condividerla anche con Massimo Fini, che è sempre in collegamento con noi. Fase 1. Quando i musulmani costituiscono 1/3% della popolazione, il loro comportamento nella società è tranquillo e non invadente. Fase 2. Quando i musulmani costituiscono il 4-20% della popolazione, cominciano le richieste politiche come la costruzione di moschee, minareti, il divieto di cerimonie cristiane ed eventi e celebrazioni di feste musulmane come il Ramadan. Fase 3. Quando i musulmani costituiscono oltre il 20% della popolazione, inizia una guerra santa. Jihad, le aree musulmane della città, ghetti, diventano inaccessibili ai non musulmani. Che dice sta roba? Comincia la piena attuazione delle leggi della Sharia. Sharia insieme agli attacchi terroristici per la secessione e la creazione di uno Stato islamico. Chi è il pirla che dice allora, sta roba? È ispirato a cose di Oriana Fallaci e voglio ispirato. Voglio chiedere a Massimo Guarda Fini. Che sono morte anche nell'attentato di oggi, sono morte anche alcune 3 o 4 persone musulmane. Sì. No, voglio chiedere a Massimo Fini roba se, mica se pensa che la che la Fallaci sia un imbecille oppure no. La Fallaci? Sì. Ma guarda, io sono stato collega di Oriana, era una straordinaria giornalista, secondo me negli ultimi tempi aveva perso la brocca, la sintesi. Ma vorrei suggerire a Parenzo. Non sarebbe l'unica, però, visto quel che abbiamo sentito. Non sarebbe l'unica. Stai dicendo che Fini ha perso la Brocca? No, prima. Ho detto non sarebbe l'unica. Lui ha scritto un libro straordinario sull'elogio del Mollah Omar, che ho anche letto, molto bello, peraltro. È un saggista molto colto. Hai detto che ha perso la testa. Si mette, quello che ha detto oggi, sì, secondo, si mette dalla parte del torto per un vizio intellettuale. Quello che ha detto oggi, secondo me, è una follia, perché un conto è il terrorismo, un conto sono gli obiettivi militari di una guerra. Sì. Questo è il punto. No, io vorrei consigliare a Parenzo la lettura di un capitolo dei saggi di Montaigne che si intitola I Cannibali. Siamo nel 500 e noi veniamo a contatto per la prima volta con mondi altri sudamericani in questo certo. caso. Sì. Montaigne dice, sì, ai nostri occhi loro sono cannibali, ma ai loro occhi i cannibali siamo noi. Il relativismo culturale, cioè, in questo caso i cannibali siamo noi. È il relativismo culturale che ha sempre, l'hai sempre teorizzato il relativismo. E quindi, noi dobbiamo anche cercare di vedere, oltre naturalmente i nostri valori, i nostri diritti e tutto quanto, anche i valori e i diritti degli altri. Faccio presente che non sono valori o diritti quelli di uno Stato islamico, teocratico e terrorista. Mi fai finire, per favore. Ma è questa la confusione del relativismo, cioè, secondo che te proponi... lo Stato islamico ha lo stesso diritto dell'Italia, del Belgio, o no? Ma tutti gli Stati all'inizio, Stati Uniti, non erano mica considerati degli Stati legittimi, no? Cioè, secondo te gli Stati Uniti è uno Stato terrorista come lo Stato islamico? Ma in un certo senso lo è di più, se guardiamo al numero delle vittime civili, si va a discutere, lo è di più. Ma come civili? Ma quelle sono vittime collaterali di una guerra, ma che non prevede l'uccisione di civili. Ma è fondamentale chiarirsi. Ma in questo l'Occidente ha dei protocolli da seguire. Scusa, in Massimo, guerra. Arriviamo alla conclusione del ragionamento. Se ti ammazzassero con una bomba, se Massimo Fini fosse ucciso da una bomba dello Stato islamico, da un attentato dello Stato islamico, tu lo considereresti una cosa normale, cioè quasi scontata? Magari ti fa pure piacere morire così, che ne so. Dice a me? Sì, a te. Sì, anche se naturalmente i civili qui e là c'entrano fino a un certo punto, sì, certamente, io lo riterrei legittimo. Lo terresti legittimo, cioè se ti ammazzassero dici vabbè, ci sta. Però scusami, l'Occidente non ha l'obiettivo di colpire i civili. Questo è il punto sul quale non si può discutere. L'Occidente non ha questo obiettivo. Quando fa una guerra ha dei protocolli da seguire. Si sanziona. Ma ragazzi miei, ma 200.000 morti non sono effetti collaterali. Prendi uno Stato con cui veramente non c'era materia del contendere, e cioè Afghanistan. E Afghanistan, i civili uccisi, non parlo dei guerriglieri talebani, sono stati 250.000. Ora, effetti collaterali di questo tipo, mi consentirai. Ma il diritto internazionale infatti punisce quando Massimo, ci sono degli eccessi domanda, ma dei civili. Lo fai zittire un secondo, se però se non però se non parlate di cose vere, sembra che la verità non è che ce l'hai ma tu. Basta leggere due cose, però capito, anche ma tu stai dicendo che è un ignorante. Non buttarla in merda. Non buttarla in merda. Sto dialogando con Fini, che stimo, e gli voglio dire di leggersi. Scusa, sto dicendo non buttiamola in merda. Sto dicendo semplicemente a Fini. Mi fa incazzare. Non è che la verità ce l'hai solo tu. Non è la verità. Non è che tu c'hai la verità. Leggiti i protocolli di internazionale sull'uso della forza. È andata a fare il c'entra il diritto internazionale? È andata a fare dai, il culo, su, dai. Non c'entra ma come niente. Che c'entra? No. Ma come che c'entra? Massimo, quando c'è una guerra, ma le rispondi su cosa? Devi porre delle domande intelligenti, vabbè. No? Vabbè. Sto dicendo a l'unico Fini intelligente che lui. No, l'unico intelligente, ti sto dicendo su questo punto di leggerti delle cose e se sbaglio in interpretazioni dei fatti. Non c'è interpretazione dei fatti. C'è che quando l'Occidente fa una guerra viene sottoposto poi a processi sulla misura dell'uso della forza. Ma questo processi è un dato di chi? Di cosa? Di quali processi? I tribunali internazionali. Ma quali tribunali interni? Di chi parli? Sai che quando ad esempio uno Stato Massimo, usa la forza, per favore, non ce la ma faccio. Hai capito il punto o no? Allora, quando uno Stato usa la forza, sì. I generali americani spesso vengono no, sottoposti Post, depositario della verità, che non è fare? Della verità, dici stronzate. I generali americani quando vanno in guerra, sì, poi il loro processo, la loro azione qui non è sul un teatro di diritto internazionale, e allora però, vai a fanculo, o parliamo di cose Massimo, serie vai, oppure continuiamo a dire stronzate. Massimo, ti sto dicendo che i generali quando fanno la guerra, gli americani Massimo, dimmi, vengono loro stessi sottoposti poi al tribunale militare che verifica se la loro azione delle origini, delle è stata proporzionata. Allora dico che la differenza tra Occidente e Stato islamico è che l'Occidente quando va in guerra si misura col diritto, sto dicendo a fini, Massimo, cosa che lo Stato islamico non fa. Massimo, lo Stato islamico si misurerà col suo diritto, che evidentemente è diverso dal nostro. Direi. E ti ricordo che il pilota Rambo che ha al Cermis per fare il Rambo ha ucciso 14 persone, non è stato affatto giudicato negli Stati Uniti. I militari americani che hanno stuprato le ragazze napoletane a Napoli non sono stati perseguiti in alcun modo negli Stati Uniti. Loro hanno un diritto di extraterritorialità. Sta dicendo Massimo Fini che i crimini li commettiamo anche noi. Infatti anche gli indiani, infatti anche i nostri due marò, noi vorremmo riportarli in Italia. Domanda finale, Massimo. Scusa un attimo. Dimmi. Nel famoso tribunale internazionale dell'AIA, gli unici a essere esclusi da qualsiasi sono gli americani. Allora è uguale lo Stato islamico con l'America, vabbè. Oppure no. Pazzesco. Ultima cosa. Pazzesco. Anche la nostra resistenza ha fatto terrorismo per forza, perché quando tu ti trovi di fronte a eserciti superpotenti non hai altra alternativa. No, ma qui abbiamo l'esperto di diritto internazionale. Quali stasera eserciti? Senti, Trump è un Quali coglione eserciti? Trump è un coglione, Massimo. Quelli che prendevano la metropolitana, che esercito sono? Quelli che prendevano la metropolitana a Bruxelles, che esercito sono? Trump quelli che erano in metro Trump a Bruxelles. Trump è un coglione, Massimo? No, nel senso che almeno per quello che ho capito vuole tornare all'isolazionismo americano, e sarebbe una gran cosa, perché Vietnam prima, Serbia dopo, dove al famoso tribunale sono andati solo i serbi, e Tudjman che aveva fatto la più grande pulizia. Ti piace, dici, perché vuole tornare a gli americani si fanno i fatti loro, come eccetera, e la smettono di voler governare e imporre i loro modelli in tutto il mondo. E sarebbe già un passo avanti. Ciao, a presto, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. La Zanzara. Speciale Bruxelles. Parenzo, quando si parla di cose serie, vai a giocare a biglie, che è meglio. E con questa frase di Massimo Fini, Anna Migliorati per gli aggiornamenti. Vai, Anna. Allora, cominciamo col dire che il blitz che si temeva nel quartiere di Schaerbeek a Bruxelles potrebbe essere finito, nel senso che proprio poco fa è stato tolto il cordone dalla via dove fino a poco fa c'erano mezzi blindati e sorvolavano gli elicotteri, quindi segno che potrebbe essere stato trovato almeno parte di quello che cercavano gli inquirenti. Ricordiamo che proprio in una casa di questo quartiere, che è stato controllato per tutta la giornata, sono stati trovati materiale chimico, chiodi simili, secondo le fonti di stampa, a quelli usati nelle bombe utilizzate questa mattina, e una bomba dell'ISIS. Blitz che sarebbe terminato poco fa. Abbiamo i nomi anche di due dei tre feriti italiani intanto negli attentati di oggi. Una è Chiara Burla, una ragazza di 24 anni originaria di Varallo Sesia, che abitava però a Firenze, medicata al pronto soccorso in un ospedale di Bruxelles, è già stata dimessa. Sotto shock un altro italiano, si chiama Michele Venetico, lavora all'aeroporto di Bruxelles ed è siciliano. Nel frattempo si è riunito il Consiglio di sicurezza dell'ONU, condannando naturalmente con forza gli attacchi di Bruxelles, ma anche sottolineando la necessità di eliminare le fonti del finanziamento del terrorismo. Non sono assolutamente preoccupato per la sicurezza di Roma, dice invece il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, che sta parlando alla cerimonia di illuminazione del Campidoglio proprio in ricordo delle vittime degli attentati di Bruxelles. Non sono preoccupato, dice, grazie alle nostre grandissime professioni professionalità, ma aggiungere dobbiamo comunque capire se ci sono segnali di anomalia, interpretarli e respingerli. Giuseppe. Allora ragazzi, andiamo subito. 800 24 00 24. Simone Bergamo, vai Simone. Ciao Beppe, ciao. Dimmi. Allora, veloce. Io sono un agente immobiliare da 20 anni e ho a che fare tutti i santi giorni con la prepotenza dei musulmani. Cioè, in che senso, scusa, hai a che fare ogni giorno con la prepotenza dei musulmani? Spiegami. Vengono da me e cercano casa in affitto. Okay? Cercano, aspetta, scusami, cercano Simone, però casa. Parla meglio, se no non sentiamo, dai, su. Chiedo scusa, cercano casa in affitto. Vabbè, questo, finché... Benissimo. Il problema dove sta? Sta nel fatto che io nel mio piccolo da oggi, non affitterò più una casa a nessun musulmano. Cioè, non ho capito. Li tengo via io. Cioè, non ho capito, Simone, tu non affitterai da oggi nemmeno una casa, cioè non affitterai a nessun musulmano una casa? Bravissimo. Ma ho capito, non è che se ti danno i soldi in mano... Non ce l'hanno scritto in faccia. A parte, non è che ti dicono sono musulmano, che fai? Come no, vuoi scommettere? Alcuni italiani... Ma scusami. Uno alla volta. Interessante come lo fa a vedere, ma insomma questo non importa, perché non è che ce l'ha scritto in faccia. Come fai a capire se uno è musulmano o no? Spiegami. Perché il nordafricano quantomeno lo becco subito. Vabbè, nordafricano sì, d'accordo. A parte che non tutti sono musulmani. Ma allora non è che sono tutti musulmani. Non sono tutti musulmani. Ma guarda, dalle mie parti ti garantisco la stragrande maggioranza dei nordafricani è musulmani. Vabbè, ho capito. Allora, tu stai dicendo, se vedi uno nordafricano, colorato, negro, che cazzo ne so, non gli affitti più la casa, giusto? Bravissimo. Scusa. Non affittarla. Scusa, Simone, però potresti rimetterci dei quattrini, magari non trovi da affittare a nessuno. No, non potresti. Sicuramente ci rimetterò dei quattrini, lo so già. Cioè, tu sei un agente immobiliare, ma immagino che lavori da solo, non è che c'hai una casa madre, perché altrimenti quelli ti licenziano dopo. È un mafioso, invece gliela affitta un mafioso. Bravissimo. A un mafioso gliela affitta? No, Parenzo, guarda. Come fai a sapere se uno è un mafioso o no? O un ladro? O un potenziale ladro? Sai, noi prima di come fa a saperlo? Cioè questa è proprio l'intelligenza della gente, capito? Se posso parlare, te lo spiego. Prima di arriva uno di Corleone, ad esempio, no? Arriva uno da Corleone e dice... C'è di bello, Parenzo, sai cosa c'è di bello? Che ti stavo provando a spiegare, ma non mi fai stupidità. Spiegare. Stupidità. Sentiamo. Allora, intelligentone, quando qualcuno vuole affittare casa da me, noi, compatibilmente con... chiede la fedina penale, verifichiamo. Quello devi farlo, giusto? Devi anche comunicare alla questura quindi, il nome della persona alla quale lo affitti. Ma non è che puoi controllare, puoi controllare il casellario giudiziario, ovviamente. Quello certo che lo puoi fare, ma quella è la polizia che lo fa. Non è che no, lo anche tu puoi chiedere il casellario. Stai parlando di cosa parli? Ho capito, ma il musulmano non è che a te basta che sia di religione musulmana, non gli affitti la casa. Gli chiedo cortesemente di cercare in un'altra agenzia, ce ne sono 20 nella mia zona. Vabbè. Che te devo dire? Arriva uno bianco. A parte che non si può fare, credo. Non c'è nessuno che provi una volta a tutelare le persone per bene. Nessuno. Vabbè, ma che c'è? Ma uno può essere musulmano per bene in teoria, cioè, perché tu hai detto bene in teoria. Io invece purtroppo vivo la pratica di la pratica, sì, ma che un musulmano è sicuramente un delinquente o qualcuno che non va bene. No, che è sicuramente prepotente e sicuramente, questa è la mia esperienza personale, spero che gli altri ne abbiano altre, è sicuramente sempre veramente mal disposto nei confronti delle nostre. Vabbè, Simone, grazie. Francesco, Padova, vai. Francesco? Palermo. Francesco, da dove? Da Palermo, ma l'ho scritto da Padova, che te devo fare? È un po' diverso, ma è uguale, dai. Allora, io ho sentito un po' la discussione stasera su tutto quello che riguarda il mondo. Hai sentito la discussione, dunque? Dunque, volevo parlare un pochettino delle origini di tutto questo manicomio. Le origini del manicomio tu non le conosci perché non le conosci. Quale manicomio? Origini di cosa? Di tutto il casino che succede tra il mondo occidentale. Ah, tu ci devi spiegare le origini del casino del mondo occidentale. Bene, allora vai. Allora, da quando è che abbiamo problemi con i musulmani? Da quanto tempo? Ma che vuol dire problemi con i musulmani? Sì, certo, ci sono. Le origini ci sono. Ragazzi, non sento niente. Dai, Lorenzo D'Alecco, io odio ascoltare male le cose. Lorenzo D'Alecco, vai. Niente. Giuseppe dalla provincia di Bari. Forza. Buonasera, Don Peppino. No, Don Peppino, un cazzo, non sono donne, soprattutto Don Peppino, Peppino sì. È una cosa che odio. Io cioè. ho battuto il record di ascolti dalle 6:30. Comunque, vai, Giuseppe, vai. Una cosa è importante che una cosa che devi abbracciare tu. Vediamo. Devo abbracciare allora, adesso, io, non devo nulla. Allora, io ero il responsabile della mobilitazione all'emergenza al comando Regione Carabinieri di Bari. Vabbè, è passato un po' di tempo, immagino, no? Quanti anni tempo, hai, scusa? Ho 69 anni. 69 anni, allora? Senti, e questa, mo, e ti spiego cosa vorrei fare. E cosa vorresti fare? Mobilitare i 140.000 che ho calcolato io, non ancora rincoglioniti. Non ho capito, 140.000 cosa? I 140.000 pensionati dell'arma, della polizia, della finanza, che siano buoni osservatori, mi segui? Sì, ma ho capito, ma gente... Non ho capito, per fare cosa? Mobilitare per fare cosa? Andare nei punti sensibili... Nei punti sensibili? Sì, i tipo... A fare che? A guardarsi intorno, a che fare? A guardarsi niente intorno, a guardare le persone che potrebbero dare adito a sospetti. Amico mio, ma abbiamo nel supermercato, sì, va bene, perché porta la chitarra nel supermercato, è un calasico. Giuseppe, ma scialle in pensione, hai 70 anni, pensa ai nipoti. Amico mio, 70 anni, pensa ai nipotini, fai fare il lavoro delle forze dell'ordine alle forze dell'ordine, pensa ai nipoti, non andare per supermercati a vedere se uno c'ha la busta, che vabbè, c'ha un mitra dentro, una borsa dentro, dai su, cioè, lasciamo la gente in pensione che ci abbiamo, ancora non siamo a livello che dobbiamo avere la riserva per controllare i supermercati, dai su, ti abbraccio comunque, Paolo da Bari. Peppino un cazzo, no, Peppino niente, cioè, odio il nome Peppino, odio Don Peppino come mi hai chiamato prima. Paolo Bari, vai. Ciao Giuseppe, volevo chiedere a Parenzo e i diritti civili dei 34 che sono morti a Bruxelles dove stanno? Beh, ma che intendi, scusa, che cosa vuoi dire con questo, amico mio? È perché Salam c'ha i diritti civili. Salam c'ha i diritti civili. Quelli che sono morti, i diritti civili non ce ne sono. Il Salah ho detto che ha il diritto ad avere un avvocato come prevede uno Stato democratico, ha il diritto cioè di essere il nostro. Mangiato dagli animali, dai porci, dai maiali. Cioè, secondo te, quello che è stato catturato, in generale i terroristi, che cosa va fatto? Bisogna tagliuzzarli e darlo in pasta ai maiali, perché il maiale, quando sente l'odore del sangue, diciamo che se lo mangia. E gli islamici in generale, gli islamisti, quelli... E gli islamisti, vale il principio, dice che non tutti gli islamisti sono terroristi, però tutti gli islamisti sono terroristi. E dunque, bisogna incominciare a cacciare gente che sta avanti ai bar senza fare un cazzo dalla mattina alla sera. Ma che c'è? Se non hanno un reddito, come cazzo fanno a vivere questo in Italia? Scusa. Ma di qualsiasi nazionalità, bulgari, rumeno, cioè musulmani, rumeno, tu dici davanti al bar c'è gente che non fa un cazzo, prendiamo questi leggere, né scrivere, e mandiamo lì, a parte che ci potrebbero essere anche italiani, anzi sicuramente molti italiani sono al bar senza fare un cazzo, anche per colpa di questi. Dunque gli italiani che non fanno un cazzo nei bar li teniamo, rastrelliamo quelli che non... gli troviamo una sistemazione. Invece li mandano a pulire i boschi, a pulire i fiumi, e invece gli altri? E gli altri a casa loro, ognuno fa il cazzo che vuole a casa loro, e quelli che... non che vengano a rompere i coglioni qua e in quelli Italia. E quelli che pregano Allah? Lo pregano per cazzi loro, come noi preghiamo il nostro Dio, non sono contro la religione, no. Ma sono contro questa gentaglia che viene qua e ci combina tutti questi casini. Ma chi sarebbe? I terroristi, dici tu? Terroristi, ma anche tutti, i musulmani, tutti. Non è che i hanno musulmani un in generale. Vedi i comportamenti come si comportano con le donne, e poi ci vengono a fare la predica a noi. Vabbè. Ma di che cazzo stiamo parlando? Amico mio, ciao. Ciao. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Speciale Bruxelles. Allora, caro Parenzo, qualcuno mi ha detto fateci risentire, vi prego, buon anno che piange, perché non dovrebbe comportarsi così un politico di fronte alle telecamere? eccetera eccetera. Il buon anno, come si dice, piangens, il buon anno piangente, piangente, ah, sì, piangens, sì, piangens, sì, ridens, piange, buon anno piangens. A che ora aveva l'aereo, onorevole? No, ho bisogno di arrivare prima. È solo lei è riuscito a partire per l'aeroporto e poi ha fatto retromarcia oppure è stato blindato, bloccato? No, da no, ho cambiato ieri ho deciso di prendere quello delle 3:20, ho cambiato idea per stare a fare altre cose in Parlamento. Quindi è stata una casualità. E poi nel pomeriggio dalla D'Urso, altro pianto. Io stamattina e anche adesso vedendo queste immagini, cioè, mi viene da piangere perché mi rendo conto che potevo essere lì e che è una cosa disumana, cioè non esiste che muoiono queste persone, non esiste questa cosa, è un disastro. Anna Migliorati, aggiornamenti da Bruxelles e dintorni, vai. Allora, sembra tornata la calma a Bruxelles, tolto l'assedio definitivamente al quartiere di Schaerbeek, dove nel blitz subito dopo gli attentati sono stati ritrovati in una casa un ordigno esplosivo con chiodi, prodotti chimici e una bandiera dell'ISIS, ricordiamo, e secondo fonti di stampa sarebbero proprio gli stessi usati nelle bombe esplose questa mattina all'aeroporto di Bruxelles, aeroporto dove questa sera è stato trovato altro materiale esplosivo, segno che davvero poteva essere ancora peggio di quello che è stato. Ricordiamo 34 morti, 230 feriti. Trovato il materiale usato, trovata probabilmente almeno una delle case usate dagli attentatori, ma non i fuggitivi, e caccia all'uomo in tutto il Belgio e non solo. Sono almeno due le persone ricercate, una delle quali ci sono anche le immagini, quelle delle telecamere degli aeroporti, dell'aeroporto di Bruxelles. Caccia all'uomo in tutto il Belgio e non solo, perché la frontiera con il Belgio è controllata a vista dalle due polizie. Agenti francesi sono appostati anche dal lato della Francia all'altezza del primo casello autostradale. C'è stata una riunione straordinaria anche a Londra, dove Cameron ha disposto il rafforzamento della sicurezza negli aeroporti inglesi, fermi gli Eurostar che collegano la capitale britannica a Bruxelles, segno che si sta cercando almeno di fermare la fuga dei terroristi. Per ora però di loro nessuna traccia. Ci sono invece i nomi dei tre italiani rimasti feriti, tutti e tre medicati in ospedale, sono già stati dimessi. Sono Chiara Burla, di 24 anni, originaria di Vercelli, Marco Semenzato, architetto originario del Veneto che da tempo però vive in Belgio, e Michele Venetico, giovane dipendente dell'aeroporto di Bruxelles, anche lui figlio di immigrati di origini siciliane. A parlare poco fa è stato il presidente americano Barack Obama. Ancora da Cuba la coalizione internazionale continuerà a colpire l'ISIS, ha assicurato, e poi però ha anche aggiunto: gli attacchi in Belgio sono un esempio in più del perché il mondo intero deve unirsi nella lotta al califfato. Allora, caro David, abbiamo l'uomo che non crede mai alle versioni ufficiali. In collegamento dalla Russia, credo a San Pietroburgo, Giulietto Chiesa, buonasera. Credi a quello che si sta raccontando, cioè il terrorismo islamico, sì o no? Guarda, io penso che per fare un attentato, due attentati come quelli di Bruxelles, ci vuole una preparazione e una specializzazione molto rilevante. Non si improvvisano, non sono atti di ritorsione per qualche strano motivo all'ultimo momento, come è stato detto che era una ritorsione per l'arresto del grande cervello che ha fatto il 13 di novembre dell'anno scorso. Tutte queste mi sembrano clamorose sciocchezze. Dunque c'è evidentemente qualche organizzazione molto seria che si chiama Daesh, di qualche ragazzotto, si chiama ISIS. Daesh. Aspetta. Sì, si chiama ISIS, certo. Io sono convinto che dietro c'è anche l'ISIS, come sono. Quando si fa l'asfalto di una strada ci vogliono anche gli operai che sanno usare il piccone e il martello pneumatico. Cioè, in questo caso, ma tu dici l'ISIS sono operai? ISIS è uno strumento, così come fin dall'inizio l'ISIS è stato uno strumento di altri. Che puttanate. Che l'ISIS sia uno strumento di

veramente, ma ma che ti dice il cervello? Ma sta ragionando su una cosa. Che ti dice il cervello? Che puttana che disonora la professione che stai in. Ah, adesso insulti pure. Ma stai zitto, David. 34 morti della notizia. Ah, io con te non ci parlo. Io 34 morti, uno deve sentire queste puttanate. David, stai fermo. Arrivederci, buona. Un attimo, Giulietto, un attimo. I'm a man. Io ho capito, ti ha dato del figlio di puttana, ma lascialo parlare un attimo. Ma lascialo parlare un attimo. Giulietto, un attimo. Ma certo. Quel paese tutte e due, ma certo. Ma che c'entra? Vaffanculo cosa? Ma lascialo parlare un attimo, no. Lasciagli finire. Ma lasciagli dire le follie. Lascia finire cosa? Lascia finire che cosa? Una roba incredibile. Ma quelle stupidaggini lì bisogna sentire. Ma io non ho capito, ma possibile mai io che lo mando a quel paese, l'unica cosa che... non sei tu l'unico depositario della verità, se quello pensa che ci sia un complotto, un confronto su delle cose, un complotto, la Spectre e io non so chi c'è, ma puttanate libere, ma non so chi c'è, se mi davi il tempo magari ti facevo dire secondo lui chi c'era dietro gli attentati, secondo lui o no, la CIA dai su, andiamo stupidaggio, giusto Pescara, vai, giusto. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dai, ti sei fatto dare pure del figlio di puttana, incredibile. Oh. Ma cioè, dovresti essere quasi da querela, quasi da querela. Ma figo, un poveretto. Porta in tribunale. Ma che porta in tribunale, poveretto. Io ho chiamato solo per questo. Sì, però amico mio, giusto, tu chiami, però porca la gran puttana. Parla da senza l'auricolare. Hai ragione, l'ho tolto, oh. Dai, Giuseppe, non ti incazzare. Allora, io ho chiamato proprio per questo. Perché David Parent è un cretino veramente. Che ha fatto? Cazzo, questo qui giusto, parere di esclusivamente giusto. Tollera solo esclusivamente le cose che gli sono gradite. Ma tutto il resto. Ma è così, Parent. Che gradite? Io come, ci sono cose che non accetto. Io le stupidaggini non le accetto. Le cose stupidaggini non secondo te? Ma no, secondo me un conto è confrontarsi. Ma vai a fanculo, me ne frega niente di parlare con questo. È condivisibile le cose che dice Chiesa. Dietro l'ISIS ci sono potenze economiche forti. Tu non puoi ragionare perché c'hai quel cervello intriso. Ma figurati, me lo faccio dire da questo qua. Da questo qua, ma che me ne frega a me di questi? Ma che cazzo me ne frega? Ma che pare che ascolto giusto da Pescara io? Ma perché non devi ascoltare giusto? Ma me ne frega qualcosa di confrontarmi con un imbecille così a me? Ma non me ne frega niente. Ma mi interessa qualcosa di giusto da Pescara, secondo te? La mia serata va avanti lo stesso senza giusto da Pescara, senza il parere di giusto da Pescara. Quella secondo tutti, la serata di tutti va avanti lo stesso. Appunto. Sì, però siccome siamo qui, parla con giusto da Pescara oppure manda a fare il culo. Con giusto da Pescara, parla pure. Questa situazione, gente come sei. Sì, vero, hai ragione. Un reddito di cittadinanza, sì, avete accolti clandestini. Abbiamo accolti, ma ancora di più. Ma chi ha accolti clandestini? Vi aspettavate che vi fossero riconoscenti, sì. Invece vi disprezzano, vi vogliono annientare. Ma e chi? Lo faranno. Chi? Dico, gli islamici. Gli islamici. In generale. Vengono qui. Vabbè. Vengono qui. Giusto, ciao. Gabriele Bruxelles, vai Gabriele. Bruxelles. Pronto? Vai, dimmi Gabriele, dimmi. Ciao a tutti. Ciao, dimmi. Ma io volevo forse dire delle cose un po' banali, ma secondo me... quello non è accettato, non è accettato qui, però vai. Vabbè, ma non è vero in realtà. Volevo dire che secondo me era un po' annunciata questa disgrazia di oggi. Vabbè, adesso è arrivato quello che va, l'analista di politica internazionale, vai, forza. Quello che dice è annunciato, me, dai, secondo forza. Stando qui a Bruxelles... Sì, ora a Bruxelles si parlava solo di... Per strada si parlava solo di attentati, dai, non dire puttana. Abbastanza di attentati, nel senso che è chiaro a tutti che secondo me il Belgio non era preparato per affrontare situazioni come queste. Perché non hanno delle strutture, dei mezzi adeguati per da che per punto di vista un'emergenza così grave. È un piccolo paese, cioè è un ma che vuoi dire? Non ho capito. È un paese che ospita le istituzioni, una capitale importante, ma il Belgio è un piccolo paese con poche risorse, poca esperienza nel gestire questo tipo di problemi. Vabbè. Quindi in realtà... Ha ragione, questo non lo dice mica soltanto lui. Il Belgio agli abitanti della Lombardia... Quattro mesi è stato latitante quello lì a casa sua in un quartiere che... Questo è abbastanza incredibile, sì. Che in un quartiere che è più piccolo di Prati a Roma. Ma di che stiamo parlando? Ma è ovvio. Ma quello magari per la complicità, la ma questo però ti dà l'idea perché l'area non è vastissima, quel quartiere. Noi siamo stati tante volte a Bruxelles. Bruxelles non è una metropoli, e in particolare quel quartiere. Vabbè, Gabriele, allora? No, e quindi dico che secondo me c'è un vuoto, cioè a livello europeo, in cui alla fine vuoto tutti i paesi vanno per conto loro, sì. Però molti di questi paesi in realtà non sono in grado di garantire la sicurezza. Va bene, grazie Gabriele. Norberto Lecco, vai. Sì, buonasera. Io mi ero un attimo scollegato. Io ho sentito Salvini, mi ha fatto sì. molto molto inquietare. Perché in una giornata come questa sì. Continuare a invocare l'odio razziale e tutto che il c'entra resto, l'odio razziale? Non ha mica detto nulla l'odio razziale ha parlato contro i musulmani, è un odio razziale, è un odio di religione, comunque è un odio contro gli altri. Io continuo a pensare che lui usi delle parole terroristiche. Esattamente come chi si fa esplodere. Peccato che lui non si fa esplodere da dei vigliacco agli altri e non si fa esplodere. Allora il ragionamento è più fine. Secondo me bisognerebbe evitare. Fallo tu il ragionamento fine, dai. Secondo me bisognerebbe evitare prima di tutto di ragionare in maniera sempre solo di contrapposizione. Vabbè. E magari cercare di capire il perché della gente comunque sceglie una bella mattina di andare lì a ammazzarsi. Perché secondo te? Di ammazzarsi e di ammazzare. Però. Perché secondo te? Avanti, è arrivato Norberto D'Alecco a spiegarci perché. Io questo non lo so. E allora perché, se non lo sai, però, perché ci hai chiamato, scusa? Perché secondo me questa è però la domanda che ci dovremmo porre. Bene, ci poniamo tutti la domanda. Rino da Napoli. Salve, buonasera. Dimmi. Stasera mi sto meravigliando del fatto che comunque per 3 anni sono stati completamente disaccordo con Parenzi, invece stasera 2 volte, 2-0, insomma, sì. Dice nulla. Poi magari dividiamo. Comunque ritenevo opportuno dire la mia per quanto riguarda questi terroristi. Io penso che sì. Una soluzione sia quella come che hanno adottato tempo addietro gli israeliani quando sono andati ad abbattere le case delle famiglie ma in questo caso che cosa c'è da abbattere? Non ho capito. Ci si potrebbe comunque andare a sequestrare quelle che sono le proprietà, i negozi dei familiari di quelli che ci sono stati escludere. Ma di solito quando si scopre un terrorista anche i familiari vengono messi sotto indagine e quando è il caso vengono arrestati, forse magari non vengono cacciati. Il fatto sta che in Israele quando è successo questo ma il fatto che non li beccano, stanno in Belgio, non li hanno beccati. Fammi parlare. Allora no. È successo che qualche genitore è andato a denunciare il figlio che si stava facendo esplodere da lì 2 o 3 volte che è successo e quindi la storiella. Va bene, Rino, ciao. Giuseppe Cosenza, vai. Giuseppe. Bene, no, non ho capito per cui è. Pronto? Giuseppe Cosenza, vai. Ciao. Dimmi. Io ho sentito Massimo Fini sì. prima che commentava sì. la questione del terrorismo sì, e sì. mi sono indignato perché pur apprezzando Massimo Fini in altre occasioni, cioè con un commento di quel tipo per me andrebbe incriminato per apologia di reato addirittura secondo me sì. A mio avviso sì. Quando ha detto cosa esattamente quando ha continuato a legittimare e a sostenere la correttezza diciamo degli attentati contro gli inermi civili eccetera paragonandoli alle vittime cioè, addirittura che andrebbe incriminato per apologia di terrorismo. Me sì, io mi auguro no, di apologia di reato, di terrorismo di quello che sia o di qualche altro reato che qualche procuratore mi auguro che stia al telefono. Procuratore, cioè, mi spiace, mi sono indignato perché questo atteggiamento giustificatorio, cioè, mi ricordo i famosi compagni che sbagliano eccetera dei terroristi all'epoca. Cioè è un comportamento che fa più danni di quelli fisici purtroppo portati da sta gentaglia. Va bene Giuseppe, sì. Ciao. Aggiornamenti ciao. Velocissimi in conclusione. Velocissimi, Anna, caccia all'uomo come dicevamo. I media belgi in questo momento stanno dando la notizia che la polizia tedesca ha arrestato 3 sospetti in viaggio in autostrada. Potrebbero essere legati a un possibile gruppo terroristico ma sono veramente i primi flash, quindi va tutto verificato. Altra notizia, Salah Abdeslam avrebbe dovuto partecipare agli attentati di oggi a Bruxelles. Caccia all'uomo, naturalmente continueremo a cercare di capire se verranno individuati, Giuseppe. Allora ragazzi, ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.